Grazie. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare, lo sapete ormai, l'imperdibile, l'imperdibilissimo e anche il perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV, tutto quello che fa discutere il mondo della rete questa settimana, calcio, cinema. Ma hai visto quanti puntini rossi hai sull'iPad? C'è un sacco di robe da aggiornare. Lo so, sono pigra. Hai aggiornato anche l'immagine però? Sì, l'immagine l'ho cambiata perché avevo il teatro Ariston di Sanremo, era un po' passato. Le psicologie di quelli che vanno sui social network si vedono anche da questo, quanto uno cambia l'immagine, quelle cose lì. Ne abbiamo un po' parlato, però invece gli hashtag restano gli stessi. Cancelletto Radio Tube. Un hashtag. Non allarghiamo. C'è anche Radio Tubiamo. Grazie a Costanza. Però, esatto. Oppure i nostri account anche restano gli stessi, quelli proprio per tutta la vita te lo tieni così. O ne apri un altro, se no te lo tieni così. Et Marta Cagnola, et di Bellasio. Eccoli qua. Anche perché ultimamente si parla tanto del fatto che le nuove generazioni, sembri mio nonno. No, ma davvero, ma quelle future generazioni. Immaginati sorti se progressive. Twitter così fosse destinato a resistere per altre generazioni. Sì, e poi scarseggeranno. Per l'assurdo, lo dico. Poi scarseggiano i nomi di account. Cioè ci sarà il commercio, dici, come per gli indirizzi? Non lo so, perché tu prova a pensare a quanti di Bellasio possono nascere e arrivare, e di Bellasio è già preso. Vedi, guarda. Comunque, se qualcuno vuole comprare di Bellasio, metto all'asta. Subito vuoi fare del commercio. Non so, ma credo che si possa. Comunque devi aggiornare, è troppo rosso. Hai visto quanti puntini? Sembra la tavoletta col morbillo. Comunque, parliamo di politica, dai, nonostante la par condicio, adesso parliamo di politica, quindi parliamo della lista della spesa, perché questa settimana non diciamo i nomi, tanto a noi non interessa. A noi interessano i video. Sì. Allora, qualcuno è andato in una notissima trasmissione televisiva che si chiama Ballarò, e che si può dire, per mostrare che cosa si può fare con 80 euro, ma noi diciamo 80 euro così a caso, per mostrare che cosa si può fare, ha tirato fuori scenograficamente uno scontrino. Si è capito di che supermercato? Non si è capito bene. Perché la pubblicità, le cose c'è di qua, la par condicio tra le catene la spinacina, di supermercati. C'era la spinacina e ha mostrato cosa si può comprare con 80 euro. Però a noi non piaceva l'originale, perlomeno a te. E soprattutto ci siamo chiesti, dove si va a fare la spesa con questa cifra assolutamente così, scelta a caso, randomica, direi. Tirata a sorte nei numeri della tombola di 80 euro. Abbiamo tirato fuori uno dei nostri youtuber preferiti, che è Alessio Giannone, cioè Pinuccio, ma questa volta... C'ha un nome e un cognome, forse è la prima volta che lo diciamo. No, lo diciamo. Questa volta però sai che era da Fiorello? Che noi vogliamo, al quale noi vogliamo tanto tanto bene, anche se sta alla concorrenza non importa, Fiorello è leggendario, Pinuccio era da Fiorello e ha fatto era all'edicola. E ha fatto una delle sue telefonate, non possiamo dire a chi, ma Pinuccio ha chiamato per sapere qualcosa. Riguardo a questi 80 euro, cifra ipotetica. Con 80 euro si fanno due settimane la spesa. Due settimane, sentiamo. Pronto? Con 80 euro fai la spesa due settimane. Ma do cazzo stai sul supermercato? No, per sapere. Senti, la partita di Burracco, il torneo la settimana prossima, non puoi venire. Il presidente ha detto, quello con i nini in faccia non li facciamo giocare. Era uno che non poteva andare alla partita di Burraco. E c'è un sacco di gente ultimamente che viene esclusa dalle partite. Cioè che non può andare a giocare nelle partite. Non mi dire la parola partita, sennò mi ricordo che questa settimana ho vissuto momenti di gloria. Va bene. Vabbè, ma non parliamo di calcio, quello normale. Anche perché tu hai twittato proprio. Sì, mi leggi su Twitter? Incredibile. Ti seguo con estrema passione e attenzione. Questa forse l'ho anche retweetata. Perché ieri tu hai twittato, ma Pelù può partecipare alla partita del cuore. Ci vogliamo mettere proprio nei guai? No, ma non stiamo, noi stiamo parlando di Piero Pelù, non no, diciamo. No, è che io mi ponevo questa domanda, cioè voglio dire, è successa una cosa giustamente al concerto del 1° maggio, no? Sì. Ed è stata ripresa da tutti. Sì. Però appunto, quindi poteva succedere una cosa alla partita del cuore e sarebbe stata ripresa, non lo so. Ci sono dei problemi in questa legge, non è che funzioni. No, anche cioè, perché, guarda che è un problema grosso. Ci sono opinioni più opinioni degli altri, altre. Piero Pelù ha delle opinioni molto precise su alcuni argomenti. Sì, discretamente forti, diciamo così. Non penso che noi possiamo ripeterla. No, però ne abbiamo tirata fuori un'altra, o meglio, ce l'ha segnalata la straordinaria Stefania Carini, che presto avremo ospite in Radio Tube, prestissimo, che ha scovato questa chicca che riguarda Piero Pelù, che era ospite di Fabio Fazio. Ecco cosa ha chiesto Piero Pelù a Fabio Fazio quando è stato ospite, a Che Tempo Che Fa. Io ringrazio moltissimo Piero, grazie a te Fabio. Bocca al lupo per tutto. Devi promettere una cosa. Dimmi. Che prima o poi parlerete delle scie chimiche. Parleremo delle scie chimiche. Ecco. Poi mi dici adesso durante la pubblicità a quali ti riferisci e noi ci vediamo fra 2 minuti con il grande maestro Maurizio Pollini e poi Gunther Grass e Luciana Littizzetto in chiusura. Grazie a Piero Pelù. Ma quanto mi piace l'imbarazzo di Fabio Fazio. Vedi che alla fine siamo sempre d'accordo, sui fondamentali siamo d'accordo. L'imbarazzo perché le scie chimiche, che chi frequenta la rete sa essere... Chi frequenta la gabbia. Ecco, sa essere argomento molto dibattuto tra coloro che ne sostengono con incredibile forza l'esistenza. Aspetta, te ne sta passando una di fianco, orora. Paurissima. Allora, mandiamo il traffico delle scie chimiche che ci sono nell'universo mondo. Appunto, dobbiamo parlare dobbiamo del traffico, sapere, delle scie chimiche, delle scie ma anche di strade autostrade, quindi ci ritroviamo ancora tra poco. Allo. Con Radio Tube. Radio Tube. Allora, l'argomento più diffuso in rete questa settimana, l'oggetto più fotografato questa settimana è un frutto. Questa settimana tutti hanno parlato di un frutto che è la banana. E finalmente non c'è par condicio che tenga, tutti favorevoli al consumo di banane questa settimana. Ma cosa è successo? Perché la banana è stata così consumata questa settimana in rete e non solo, Daniele? Dunque, allora, praticamente mentre il giocatore Dani Alves stava per calciare un calcio d'angolo, è arrivata dagli spalti una banana... Che poi tu chiami platano qui nella scaletta, non so. Perché è successo sì, in Spagna. Lo so, hai ragione. Platano. Allora, è arrivata una banana e lui, molto velocemente, prima di calciare, ha dato un morso e l'ha mangiata. Ok? Ma intanto scusa, in che senso è arrivata una banana? Allora, mostriamola alla radio. Mostriamola alla radio spagnola. Così vediamo, dai. Nel minuto 30 in medio del juego, esta segunda parte. Sergio Fabregas, sí, perdona, Silvia. Ha recogido un trozo de comida que le han tirado a Dani Alves cuando iba a lanzar el córner y se lo ha comido. De un trozo de plátano. Plátano creo que era, sí. ¿Y se lo ha comido? Claro. Sí, señor. Qué grande. Hay que decir, enorme Alves, estúpido, si lo ha hecho con alguna intención racista, el que lo ha lanzado. Enorme. Allora, al 31esimo della ripresa, la partita era Villarreal-Barcelona. E Dani Alves ha quindi reagito a questo gesto mangiando prima di colpire il calcio d'angolo. Da lì è partito un virale su tutti i social network di qualunque cosa, di foto, anche politici che non possiamo nominare, uno fa il Presidente del Consiglio, con l'allenatore della Nazionale. E tutti a farsi fotografare mangiando una banana perché è sembrato un bel gesto antirazzista. Anche a Radio 24 tutti hanno mangiato la banana per protestare contro questo gesto, veramente posso dirlo, idiota, di un, ma non mi viene anche da dire tifoso, di uno che ha buttato la banana in campo. L'hanno fatto i nostri straordinari colleghi di Tupi. Dillo che è il tuo preferito. Ma non è proprio il mio conduttore preferito, il mio preferito tout court. Tutti convocati tutti i giorni alle 14, ma anche la domenica alle 17. Sai che io per la domenica c'ho quella... Bellissima. Che poi è di particolare, come dire, c'ha una spinta quella della domenica. Ci piace proprio sempre, sì. La domenica. Carlo Genta, buonasera Carlo. Allora, ragazzi, allora innanzitutto è un onore, vi ringrazio di essere a RadioTube, però io sono per il crossover totale, quindi vi aspetto a tutti convocati. Vedete, veniamo a mangiare banane, magari, proprio infatti, banane. Ma senti, ma è veramente un episodio incredibile questo, ma anche molto bella la reazione che ha avuto la rete, dai. Sì, molto bella la reazione che ha avuto la rete, molto naturale, molto charmant, molto cool. Come lo chiami tu, Marta? Cool, mi cool, piace, cool, mi piace. Don't like cool. Ok, cool, ma sai cool, che va bene. Io e Carlo Genta lavoriamo insieme da 14 anni, quindi ti sopporta da più tempo di me. Sì. Ma no, è stato splendido nella sua naturalezza, no? Perché questo raccoglie il frutto e se lo mangia. Tra l'altro, questo tizio che l'ha lanciato è stato identificato e non potrà più entrare nello stadio di Villarreal e tutte queste cose. Poi c'è stata questa enorme reazione, lo ricordavate voi sulla rete, ci siamo trovati tutti a mangiare banane, a farci fotografare con l'oggetto giallo, eccetera eccetera. Poi è diventato subito una maglietta, perché il non compagno di squadra, però giocatore compagno di squadra del Barcellona, Neymar, ha così inventato, diciamo, questa maglietta con la banana, con scritto Somos todos macacos. Ah, siamo tutti scimmie, giusto? Scimmie. E poi c'è stata una polemica, lo sai, no? Come? Ma mi sembra tutto tranquillo, pacifico, no? Tranquillo, pacifico, neanche tantissimo. Perché poi è stato detto, va bene, adesso questa cosa è diventata un po' strumentale, perché c'è profumo di marketing e di merchandising, quindi non lo so, magari questa maglietta con la banana e con la scritta Somos todos macacos la troveremo nel periodo dei mondiali nei vostri negozi preferiti a 29,99. E speriamo che almeno, non so, i proventi possano andare, no? Sì, proventi di che? Vabbè, insomma, sempre poi. Di solito sei tu quella che becca il product placement. Speravo che invece in questo caso niente. Ha detto mondiali, a Carlo? Proposito di mondiali, sì, io ho questo problema qua, perché può essere un problema ma anche un'opportunità. I mondiali sono a orari impossibili, no? Sì, beh, prima fase, quando ci sono questo groviglio di partite, questa orgia di partite, per cui se ne devono giocare un sacco, sono orari anche un po' difficili. Poi verranno raccordati, quindi tutto sommato avremo delle partite a orari accessibili anche, ecco, per ma non è che questo aiuterà la rete? Luci rosse. Aiuterà la rete. Cioè, nel senso che la dovremmo usare ancora di più per vedere azioni. Questo ricostruiamo il giorno dopo le nostre cose preferite. Sì, questo on demand, tu dici. Questo può essere, anche se, sai, nel periodo dei mondiali sono tutti disposti a fare le ore piccole, a non dormire, a divorziare, vale tutto in quel periodo lì, però può essere che insomma sia un a divorziare. I mondiali è l'unica manifestazione sportiva dove anche, sì, anche le donne possiamo dire, no, partecipano, l'incremento delle nascite, queste cose qui. Io lo dico sempre, io so anche spiegare cos'è un fuorigioco, soprattutto. Allora, fuorigioco, sì. Arbitri, polemiche. Anche ecco, qui io voglio l'opinione di Genta subito. No, perché qui dobbiamo. Mostriamolo subito. Allora, la Juventus è purtroppo, per sfortuna, ho sofferto tanto. È un filo di parte questo. No, ma bisogna essere sportivi. Tutti dicono che tifano per le squadre italiane quando sono in Europa. Sono contrario alla sportività. Ecco, secondo io me... pure. Poi nel caso della Juventus. No, io sono a favore dei gufi, del gufismo, del sano tifo contro. Quindi. Inutile fare i moralisti. Chi se ne frega del signor ranking UEFA? Quando gioca, cioè, non c'è nessun tifoso dell'Inter, della Fiorentina, del Napoli che ti ha fatto per la Juventus contro il Benfica, dai, siamo chiari. Ma è giusto così, eh? Dunque, Conte, l'allenatore della Juventus, se l'è un po' presa con l'arbitro. Vediamolo. Penso che sia andata in finale la squadra che ha meritato di meno. La tattica ostruzionistica da parte del Benfica è stata valorata da parte dell'arbitro, che ha permesso tutto. Basti pensare che abbiamo giocato solo 49 minuti di gioco effettivo, quando la media è di 60-62 minuti ogni match. Magari il Benfica ha avuto più esperienza da parte nostra, anche nella lamentela nei confronti dell'UEFA, nel mettere le mani avanti. Avremmo dovuto farlo anche noi, piangere un po' con l'UEFA, perché, ripeto, oggi sono affrontate due squadre sicuramente forti, ma un arbitro non all'altezza della situazione. Anche lì ironia in rete. Tu, Daniele, hai postato un Conte che piangeva, diceva voleva 50 minuti di recupero. Sì, era un retweet, a dire la verità. Però sì, subito sono partite le ironie. Anche perché è un po' strano, di solito gli juventini hanno sempre detto che loro di arbitri non sono come le altre squadre. Invece, Carlo? Don't you cry tonight. Ah, vedi, beh, cioè, noi facciamo, li facciamo cantare tutti a Radio, esatto, Tube. Dopo la tedesco anche gente. Dai, no. Ha ragione o torto? Ma torto, Marcio, dai, siamo. Cioè, allora, se la Roma dice delle cose sono provinciali, invece poi vai in Europa e allora ci si lamenta, e allora il provincialismo dove sta? Secondo me sono tutti alibi. La Juventus ha fallito due volte in Europa, la prima in Champions League dove è uscita e si è lamentata del campo, e va bene, a Istanbul c'era la neve, c'era quel campo, c'era quella situazione, però sei uscito lo stesso in un girone semplice. Hai la finale in casa, giochi col Benfica, sbagli tutte e due le partite, esci e poi dici no, colpa dell'arbitro che non mi ha dato il recupero, e allora colpa tua quando mai? Secondo me in questa puntata ci voleva anche Cristian Rocca per controbilanciare, per avere uno juventino. Carlo, tutti convocati è una delle trasmissioni di Radio 24 che usa in maniera più divertente e intelligente i social network, in particolare Twitter. Durante le due ore di trasmissione gli ascoltatori scrivono, twittano, vi menzionano, c'è una bella interazione. Sì, c'è un sacco di interazione, poi insomma soprattutto adesso si è verificata questa perversione per cui ormai i protagonisti del gioco parlano solo attraverso Twitter. Hai mai sentito parlare Icardi tu? No, ma ho visto un sacco di foto, però esatto, come todo il mondo, no? Comunque sai, i giocatori usano questo mezzo ormai per manifestare il loro pensiero, è un modus che ha preso piede, è la principale anche fonte di notizie, di informazioni, di pettegolezze, di tutto quello che vuoi. Non so se sia un bene o un male, sinceramente. Secondo Daniele ci vorrebbe in alcuni casi la confisca dello smartphone. No, io sono d'accordo con lui. Avverrà con alcuni giocatori senz'altro, perché c'è chi mette a rischio la presenza in campo la domenica perché dice cose. Ma secondo me in questa vicenda di Icardi, che è stata la più gettonata di tutte, cioè la figura peggiore, ma questo l'ho detto molte volte, l'ha fatta certamente il giocatore, certamente la sua compagna, tutto quanto, certo. È stata una storia molto pelosa, ma la domanda che ti fai è: ma come possono permettere la società che ti dà lo stipendio, come può permettere a un giocatore di creare una situazione di questo tipo? Cioè, io fossi stato il signor Inter, non so se Moratti, tu scegli tu, avrei detto va bene, ok, questo tweet ti costa 100.000, il prossimo 200, il prossimo 400 e poi da lì a salire, perché queste cose vanno gestite, perché sono personaggi pubblici, sono molto esposti mediaticamente, poi ti devi comunque tu e quell'altro, il competitor, ti devi infilare in uno stadio, sei di fronte a un sacco di persone, ti lasci immaginare il livello degli studi. Insomma, è una vicenda. Poi, è una vicenda più c'erano di mezzo anche bambini, quindi. E questo è l'aspetto peggiore di tutta la storia. Cioè, c'è chi ha detto, c'è chi mi ha scritto, il giorno dopo quella partita contro Inter Sandoro è successo tutto sto casino qua. Il giorno dopo quello twitta la foto del bimbo di quell'altro con la maglietta dell'Inter numero 9. Va bene, io andavo lì e gli spaccavo il naso. Insomma, io faccio fatica a non essere d'accordo con chi mi ha scritto sta roba. È una cosa brutta, ragazzi, chissà cosa succederà nei mondiali. Secondo me davvero qualche telefonino comincerà a sparire, perché sicuramente, i mondiali sono, ma ci saranno cosa. Allenatori che lo diranno è successo in politica, nelle riunioni politiche, figuriamoci se non succederà nei ritiri. Torniamo a parlarne, perché dobbiamo ringraziare Carlo Genta, ricordare tutti convocati tutti i giorni alle 14, la domenica alle 17. Tutti convocati è un hashtag, è bellissimo, è bellissimo. Genta, ma anche Pardo e Capuano, ricordiamoli. Grazie Carlo Genta di essere stato con noi. Però aspetto che Daniele e Marta mi rendiate la visita. Ci dobbiamo prendere un appuntamento ufficiale. Ah, va bene. Allora, okay. Durante la pausa prendiamo l'appuntamento, noi ci risentiamo tra poco. Ciao. Radio Tube. Beh, dopo questa sbornia di calcio sarai ma contento. Ma quanto è atletico Genta? Beh, Carlo Genta, poi piace. Cioè, fisicaccio. Hai dunque questi sportivi. A metà, ti ricordi che a metà io devo sempre dire il podcast? Sì, mi piace. www.radio24.it, non lo dire così che è già... Ma guarda, allora, dunque, come sono mi hai mandato in confusione. E poi anche devo ricordare gli account di Twitter. Sì. @di Bellasio. Sì. @Marta Cagnola, oppure cancelletto. detto, RadioTube è l'hashtag. Per segnalarci tutto quello che volete, anche perché noi quello che è più diffuso su Twitter in particolare non possiamo fare a meno di riprenderlo. In particolare, secondo me, ultimamente, ma no, non solo ultimamente, secondo me succede che quando scompare qualche attore famoso, sì, ed è una cosa tutto sommato è come un rito collettivo, sì, sì, anche sì, buono dei social network, no? Sì. Un modo per ricordare insieme qualcuno che è stato qualcuno nel mondo dello spettacolo, dello sport, in qualsiasi modo, e che e lo si ricorda con immagini, frammenti. Questa settimana è successo tanto con Bob Hoskins, anche perché sì, non solo ricordiamo un attore, ma ricordiamo ad esempio noi stessi, all'epoca, no, chi ha incastrato Roger Rabbit. Tu dici che c'è un bambini, sottofondo di egoismo anche in questo? No, ma forse perché ci colpiscono nel nostro intimo, nel nostro c'eravamo, essere un po' nostalgici di alcuni periodi. Sì, ad esempio, appunto, è successo con Bob Hoskins, ma è successo anche con questo personaggio che è scomparso qualche giorno fa. In rete se ne è parlato davvero tanto. Ah, vedi pure la fotografia. Ma è quella dell'ultimo anno. Eh sì. Guardale com'eri. Guardale come sei. Ma pari tu zio. E basta, ho capito, eh. E beh, era Angelo Bernabucci che è passato alla storia per questo me pari tu zio. I grandi caratteristi, tra l'altro, sui social network vanno molto i caratteristi. Anche questo, secondo me, è un elemento interessante. Cioè, ci si diverte a ricordare con una certa grazia soprattutto quelli che non erano il primo attore, ma i migliori tra i secondi attori, tra i coprotagonisti. Mi piace, una vita da mediano, mi piace. Questo era Compagni di scuola, che noi avevamo già ricordato. Per la giacca di Christian De Sica, che si vede in un'altra scena con lo stesso quando eravamo attore a Vinitaly. Però adesso, quando come eravamo, dicono quelli, no? Voltiamo pagina. Voltiamo e finalmente parliamo di quello di cui tu vuoi parlare dal giorno in cui è finito il Festival di Sanremo. Sì, sì, non vedevo l'ora e finalmente possiamo farlo. Io direi che prendiamo un aereo. Sì, e andiamo. Tu lo prendi davvero? Io lo prenderò davvero tra qualche giorno. Prendiamo un aereo al chiodo. Ma qualcuno deve rimanere. Restiamo io e Valeria in regia. Vabbè, me ne farò una ragione. Io sarò a Copenaghen perché succede qualcosa tra pochissimi giorni. Io comincerei a parlare di questo argomento con una canzone. Eccola qua. The sky is red tonight. We're on the edge tonight. Daniele, tu la conosci questa canzone, ovviamente. Ovviamente. Ovviamente, ovviamente. La stavi canticchiando. Ovviamente, sì, sì, ovviamente. Schiettavi. Allora, questa canzone si intitola, sì, Only Teardrops. Yes. E lei è Emily de Forest, una bellissima ragazza danese. Danese. Che l'anno scorso ha vinto il concorso Eurovision. Sì. E quindi quello quest'anno, quello con l'hashtag che sembra un codice fiscale. Cancelletto ESCITA. Escita. Escita, come vuoi. La prossima escita settimana farà esplodere Twitter, noi lo diciamo già, no, in anticipo. No, ma è già partito, addirittura ai più alti livelli istituzionali è già che partito. Non possiamo citare sempre per no, la par condicio. Si può, no, è solo un account di Twitter. Esatto, è solo un può account di Twitter. Allora, noi andiamo già Danimarca, perché in questo momento già a Copenaghen si trova quello che gli ascoltatori di RadioTube conoscono come il più grande esperto vivente del Festival di Sanremo, ma in realtà lui è ancora, c'è il PhD in Eurovision. Esatto, è il capo delegazione aggiunto dell'Italia per questa Eurovision, il nostro Eddie Anselmi. Buonasera Eddie. Buonasera Marta, buonasera a tutti gli ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di RadioTube e ciao, c'è anche Daniele. Sì, sì, cioè, eccolo qua, c'è Daniele che non conosceva Emily, che noi conosciamo tanto bene. Senti, intanto dici subito che aria si che respira, aria. Anche perché noi ovviamente quest'anno puntiamo, le nostre speranze sono tutte puntate su Emma che corre per l'Italia. Emma sta facendo le valigie in questo momento, domani alle 14.05 è attesa all'aeroporto di Copenaghen. Nel frattempo i preparativi sono febbrili perché 05, mi raccomando. I 31 paesi semifinalisti, perché ricordiamo 31 paesi su 37 devono giocarsi l'accesso alla finale, solo 6 sono finalisti di diritto, tra cui appunto l'Italia, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Germania e gli ospiti della Danimarca. Gli altri hanno già cominciato le prove. Diccelo subito, come stanno le scommesse dei bookmaker, perché soprattutto poi insomma, quelli inglesi sono già scatenati da tempo. Emma come è messa al momento? Allora, in questo momento i bookmaker ci accreditano di una posizione non tanto lusinghiera, dicono che noi potremmo essere dodicesimi, quindicesimi, tutto è da verificare. Ma che disastro! Dobbiamo ancora farsi vedere. sul palco, cantare, fare vedere com'è come sono le nostre luci, il nostro impianto scenico. Saranno delle sorprese e che magari potranno farci risalire la china. Ecco, ma spiegatemi un attimo, la canzone di Emma è inedita o si conosce già? Te la possiamo già far sentire? Abbiamo la canzone di Emma, eccola qui. Titola La mia città ed è la... Ma mi piace, a me piace, anche a Valeria, in regia ballava. Faceva finta di no. Le scarpe col tacco. Allora, beh, intanto Emma è bravissima secondo me sui social, l'altro giorno mi ha fatto troppo ridere perché ha postato, ho fatto la prova costume per quest'anno, sono a posto, e ho detto ci sarà qualcosa sotto, cioè Emma non farebbe mai un selfie in costume. E invece si era mascherata, la prova costume era una... Ah, da cosa si era mascherata? Sì. Ma si è messa una coperta, una maschera sopra, molto molto simpatica. Eddie, l'anno scorso fu un evento estremamente social, cioè anche... ha avuto nonostante un l'hashtag, tra l'altro. No, è niente, Daniele Nova, questo è scritta... facili. È scritta, non gli piace. È andato molto forte l'anno scorso, Eddie? Allora, l'anno scorso, nel 2013, Eurovision è stato in Italia il secondo programma non sportivo più twittato dopo il Festival di Sanremo, ovvero ha messo in fila tutti i vari X Factor, The Voice, Amici. Nessuno di queste trasmissioni ha avuto più tweet dell'Eurovision. Di più, anche la sera della seconda semifinale, che non era trasmessa dall'Italia, l'Italia l'anno scorso votava durante la prima e non trasmetteva la seconda, comunque le persone che hanno guardato l'Eurovision in rete, sugli altri canali, hanno issato quella sera Eschita al numero uno dei Twitter Trends. Guarda, quindi... che è una cosa pazzesca. Tutti twittavano di un evento televisivo che non veniva trasmesso dalla televisione italiana. Bello. Eddie, ho due curiosità prima di prendere l'aereo per Copenaghen. Vabbè, martedì, non subito, martedì prenderò l'aereo per Copenaghen. Dopo i casi delle nonnine russe, insomma, c'è sempre il gigante, l'anno scorso c'è sempre qualche caso particolare. In questo caso farà discutere l'Austria, immagino. Beh, la cantante austriaca si chiama Conchita Wurst. Conchita è una drag queen, è un attore, un cantante maschio che si chiama Tom Neuwirth, che in persona ha dato vita a questo suo alter ego scenico, che invece è donna, ma di questa ambiguità iniziale porta dietro la barba, quindi è la donna barbuta, interpreta una canzone che si chiama Rise Like a Phoenix, e com'è la canzone? Come una fenice, una canzone, un Bond theme, una canzone che potrebbe veramente essere la sigla di un film di 007. L'ho vista ieri in prova, la notorietà del personaggio, la curiosità della sua immagine e anche l'esecuzione, le luci e la performance scenica fanno sì che si possa pronosticare che sarà una delle protagoniste sabato sera, probabilmente ha lanciato una forte candidatura per essere nella gara di testa. È un momento molto difficile per alcuni paesi europei, in particolare Russia e Ucraina sono in competizione. Lì che aria si respira, ad esempio, tra le delegazioni, tra gli artisti? Io ho parlato con entrambe le capodelegazioni, russa e ucraina, che stupite, stranite e contrariate da questa inimicizia che si sta creando tra i loro rispettivi governi. Questo ambiente di delegati televisivi vive le inimicizie tra governi in maniera assolutamente contraria. Ci stupì, ovviamente i pareri sono diversi, le letture sulla rappresentazione mediatica di quello che sta succedendo sono diverse, sono spesso critiche, ma l'inimicizia, insomma, di quest'anno tra questi due paesi vicini, legati da centinaia di anni di storia, oltretutto è vissuta in maniera particolarmente ingombrante, con disappunto da parte di entrambe le delegazioni. Comunque, a parte tutto, l'Europa avrebbe probabilmente bisogno di tanti eventi come questo, anche sì, come operazione simpatia, immagini, però comunque sono eventi in cui si ha la sensazione di partecipare a qualcosa tutti assieme. No, lo dico sul serio, dal campionato di calcio alla musica pop, sono eventi che hanno anche una valenza e, come dire, sul futuro ha un peso persino politico. Quello che dico sempre, con Sanremo si impara la storia dell'Italia, alcuni passaggi, quello che è successo. Con l'Eurovision si parla della geografia, la geopolitica. Nessuno o in pochi potremmo mettere onestamente sulla cartina l'Azerbaigian o l'Armenia al primo colpo, se non avessimo seguito in questi anni l'Eurovision, parlo ovviamente di chi è qua all'interno di questa bolla, ma credo che anche gli ascoltatori a casa possano appunto imparare a guardare anche all'interno di questo, di questa grande Europa che è l'Unione Europea da un lato, l'Europa che parla russo dall'altro, un grande continente con ancora dei tasselli di questo grande puzzle che non sappiamo dove sono. Ecco, l'Eurovision aiuta anche a riconoscere i caratteri dei popoli, anche a riconoscere, oltre che la geografia, anche proprio quelle, come noi sappiamo dire due parole sui francesi, sugli olandesi, sui nostri vicini che abbiamo sempre conosciuto. Beh, ci sono grandissime differenze anche tra georgiani e bielorussi, però uno non lo direbbe, li mescola sempre tutto in questo grande grande territorio oltre confine, ex URSS si dice. Invece no, le differenze sono tante, come noi sappiamo le differenze in Italia, per esempio tra i sardi e i friulani. Ecco, quando poi si viene a contatto con questi popoli, con queste nazionalità, poi è bello anche dare a ciascun popolo anche un luogo comune, però un luogo comune vero. Eddie, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ma intanto ci riascoltiamo in sottofondo un po' della canzone di Emma. Sì, ma chi vince? Della mia secondo città. Eddie, ecco, chi vince? Ecco, perché qua c'è Daniele già pronto alla scommessa. Vuole, ecco. Chi vince, Eddie? Allora, i bookmakers dicono Armenia, io ovviamente tifo Italia, ma la logica dice Regno Unito, quindi se avessi un penny da scommettere lo punterei su Molly. Ecco, lei sulla sua Children of the Universe, la BBC ha fatto le cose in grande, vuole tornare a fare percepire l'Eurovision come qualche cosa di bello, qualche cosa di cool, hanno detto loro, quindi, perché l'Eurovision è ancora considerato il programma televisivo più visto in Gran Bretagna, ma è considerato una cosa trash, una cosa scherzosa, una cosa poco seria. E se l'Inghilterra, se la Gran Bretagna tornerà a credere nell'Eurovision, allora potremmo vedere veramente alcuni pesi massimi su questo palco nei prossimi anni. Eccola qui, Emma, la mia città, quindi noi tiferemo comunque per Emma, teniamo d'occhio tutti gli altri, martedì e giovedì le due semifinali su Rai 4, sabato la finale su Rai 2 e soprattutto seguite l'hashtag che non piace a Daniele, AskIta, e poi l'account di Eddie, @EddieAnselmi su Twitter, perché ci tiene sempre aggiornato su tutto quello che riguarda l'Eurovision. Eddie, ci vediamo a Copenaghen, a presto! Ci vediamo a Copenaghen! Ciao! Daniele, noi invece ci ritroviamo tra poco per parlare di, udite udite, cinema. Radio Tube. E no, Daniele, non lo dico come passa il tempo quando ci si diverte, perché mi fai... No, ma allora, mi fai il verso, ma no, mi prendi in giro. Il tempo del traffico. Mi prendi in giro. E poi c'è anche domani tanto, lo sai che... Sì, c'è anche la puntata della domenica. Sì. Alle 15, una puntata tutta nuova. Domani parleremo di un argomento... Domani la cagnola è in pista, No, si parla di... Dimmi. Allora, un argomento che secondo me è allo stesso tempo molto lieve, molto pop e molto impegnato. Parliamo di libri e social. Libri e social. Letteratura e social network. Andranno d'accordo? La più grande... Non lo so. Chissà. Va bene. Parliamo di... No, allora, intanto parliamo di social network, perché mi hai segnalato questa notizia particolarmente curiosa e gustosa, perché noi abbiamo sempre... Quando cerchiamo di capire di cosa si parla in rete, che cosa fa discutere quello che alcuni si ostinano a chiamare il popolo della rete, io non ho ancora capito che cosa c'è scritto sulla carta d'identità degli appartenenti al popolo della rete, ma insomma, non... dobbiamo sempre capire quando... una piattaforma è un social network oppure no, è un dibattito. E c'è il dibattito, adesso l'ultimo dibattito è su Twitter, perché c'è chi dice, come fosse un'offesa, che Twitter non è un vero e proprio social network, ma è più simile a YouTube, quindi ci riguarda ancora più da vicino, cioè una community di informazione che tu trai. Io sinceramente non sono d'accordo, ma invece pare proprio un social network. A me pare socialissimo. Che ma poi c'è il dialogo, ci si scrive. Pensa al dialogo che ho avuto questa settimana con alcuni juventini. Io sui social network, Quindi no, a me pare un social network, però è vero che serve anche per informarsi, non soltanto per condividere i nostri hobby e le nostre vite private. Sai che c'è invece qualcuno che non sopporta i social network? Oh, sì, certo che lo sai, ma in particolare parliamo... Già la scorsa settimana Caparezza... Caparezza era un po' diffidente, sì. Cioè Caparezza sembrava uno di quelli che si devono buttare nell'acqua del mare ma prima l'assaggiano con la punta dell'alluce. Sì, sì, oppure quelli che tutti gli dicono lo devi fare e lui vabbè qualcosina lo faccio. Però con molta circospezione. Invece questa volta? No, parliamo di un personaggio in realtà immaginario. Perché sì, c'è un film in sala in questo periodo che si intitola Un fidanzato per mia moglie. È in realtà un format, perché è un film argentino, i diritti sono stati comprati da un notissimo agente televisivo che è Beppe Caschetto, che ha costruito un film attorno ad alcuni suoi volti popolarissimi, che sono Luca e Paolo, Geppi Cucciari, ma ci sono anche Ale Franz e altri, diretto da un bravissimo regista che è Davide Marengo. Cosa succede? Allora, Paolo è il marito, sì. Geppi è la moglie, sì. È una moglie che rende la vita impossibile al marito. E cosa fa il marito per liberarsene? Che strano. Ma cioè, senti, no, vabbè, allora... Fantascienza. Ritorniamo sul film perché sì, non, scusami, ecco, non andiamo, network, non andiamo su questi argomenti scivolosissimi. Sì. Cosa fa il marito per liberarsi della moglie non avendo il coraggio, come codardo, come tutti gli uomini, di lasciare la moglie? Le trova un amante. Lui? Che è un playboy e che è interpretato da Luca Bizzarri. Ecco l'altro. Ma intanto sentiamo questo personaggio, che è quello di Camilla, che è una DJ radiofonica, sì. E questa cosa è straordinaria, ti piace? Sì. Certo, anche che rende la vita difficile a qualcuno. Esatto. Ma guarda, perché Marta Cagnola ha scelto questo film? Che bella situazione, perché lei è molto cinica e molto simpatica. Allora amici di Radio Mente Libera, buongiorno e benvenuti in ascolto. Oggi inauguriamo una nuova rubrica, Cose che non sopporto della vita, con Camilla Ledda. Buongiorno Camilla e benvenuta, come stai oggi? Male. Male? E come mai? Cos'è successo? Perché tu vedi tanti motivi per star bene. No, non saprei, dici tu. Ma io vedo solo gente falsamente ottimista. Io detesto l'ottimismo, i sorrisi di circostanza, la gentilezza forzata, hai presente? Ho presente, però è vero anche che a volte l'ottimismo serve per superare alcuni momenti difficili della vita, no? No, è un modo per negare l'evidenza. L'ottimismo inganna la vita eppure te... Ma nella lista che questa conduttrice radiofonica Camilla, nella lista delle cose che non sopporta, a un certo punto del film Geppi Cucciari dice: non sopporto quelli che insultano su Twitter nascondendosi dietro a nomignoli e non sopporto quelli che usano Facebook pensando che sia un diario segreto e invece mettono tutti in piazza. Bene. Ecco, quindi ci sono i social network nelle cose che non sopporta. Ma lei è Camilla. È tipo la risposta degli anni 2014 a Furio, te lo ricordi? Di Magda Miani. un pochino riesce a urtare. Immagini Furio sui social network? Oh mamma mia, che paura. Non mi disturba affatto. Non mi disturba affatto, straordinario. Però a questo punto... Sai che spesso chiesto. Ma certo, perché sai che spesso poi i giornalisti dicono: tu che no, sei ma sempre quanto... a fare interviste. Ma certo, ma quanto il tuo personaggio assomiglia a te nella vita? No, mica avrai fatto questa domanda. Io la premessa è stata: anche perché io gli avrei detto quanto assomiglia a me nella vita il personaggio. Esatto. Le ho detto: guarda, io questa domanda non la faccio mai. Però stavolta mi verrebbe un po' da chiedertelo, in particolare per questa cosa dei social network. E senti un po' cosa ha risposto Geppi Cucciari. Mi sembra evidente che questa, in modo particolare, la lista di cose che dice Camilla è stata in qualche modo arricchita anche dal mio personale apporto. Ecco, è individuato certamente due cose che io ho portato in dote, diciamo, tra le cose che non sopporto. Diciamo che la libertà di pensiero, la libertà di porgerlo, che garantisce, in teoria dovrebbe garantire anche la vita, ma che in modo particolare nella rete è imperante, è una fantastica conquista per cui chi è stato prima di noi ha lottato. Diciamo che c'è qualcuno che lo usa e c'è qualcuno che ne abusa di questo strumento. Non amo in generale la volgarità e non penso che sia una modalità necessaria per esprimere il proprio pensiero. Io leggo in generale sulle persone commenti a volte negativi, e questo ci può stare ed è naturale che è giusto che uno possa scrivere e manifestare il proprio dissenso. Devo dire che esiste anche uno stile, dovrebbe esistere un decoro, un codice etico nel porgerlo, che qualcuno smarrisce totalmente, soprattutto quando è nel buio della sua stanzetta ed è davanti a una tastiera e pensa che essere onesti sia dire tutto quello che ti viene in mente nel modo in cui ti viene in mente. Credo che la libertà sia un'altra cosa. Eccola qua. È un'altra cosa nella realtà, la libertà è anche nei social network, è un'altra cosa rispetto a dire tutto quello che si pensa senza regole. Tanto più che Geppi Cucciari ha 148.935 follower, 4 following e 0 tweet. E chi sono i quattro? I quattro ho controllato subito ovviamente. La sette e affini. Cose di lavoro, direbbe il nostro comune amico. Esatto, più o meno cose di lavoro. Come passa il tempo. Invece, tra gli altri protagonisti che sono Luca e Paolo, c'è un addicted di Twitter che è Luca Bizzarri. Ecco, quando è iniziata lui è bravo. Ogni tanto non si fa tanti problemi. Lui è molto schietto su Twitter. Mena nel senso di risponde. Sì, lui è molto bravo su Twitter. Ovviamente appena è iniziata la presentazione tutti si sono fatti selfie, contro selfie, hanno postato tutto quello che c'era da postare, e anche a Luca Bizzarri e a Paolo, che si soggono, non abbiamo potuto non chiedere qual è il loro rapporto con i social. Anche troppo, ma io mi diverto da matti perché mi piace soprattutto la parte più brutta di Twitter, cioè gli schiantati dell'internet, quelli lì che io e la Soncini abbiamo i nostri schiantati, ce li teniamo buoni, io ce n'ho un paio che mi curo proprio, perché poi se non gli rispondi mai ti abbandonano, per cui devi rispondergli, devi mettere la provocazione giusta. È molto divertente Twitter. E poi perché ti senti intelligente, non so come, cioè, tipo, per l'autostima va bene Twitter. Paolo, tu ti attenti? Io non mi diverto. lo seguo ogni tanto, ma non anche poi. Per esempio, ho fatto la foto col selfie anch'io, però se tu vai a vedere, probabilmente sono l'unico che poi non l'ha. Perché poi non c'è un mezzo che. Cioè, ho un temo da un certo punto di vista, è che poi a forza di avere a che fare con gli schiantati poi diventi schiantato anche un po' tu. C'è questo rischio. Alla fine un po' ti schianti. In effetti questo allora... rischio c'è. Ecco, siamo un po' due schiantati. Un po' schiantati siamo. Ma come passa in fretta il tempo quando c'è il sesso, lo devo dire per forza, perché il nostro tempo a disposizione è finito, ma solo per il sabato. Ed è solo sabato perché domani è domenica, quindi la puntata di RadioTube preferita da Daniele Bellasio, domani dalle 15 alle 15.30 parleremo di libri e letteratura, quindi non è un addio, ma solo un arrivederci a tra poche ore. Intanto noi ringraziamo Valeria Bernardi in regia, ci ritroviamo quindi domani alle 15 ancora con RadioTube. Ciao.